Non so proprio che pensare, come posso sperare di continuare senza soldi da spendere, andare alla cieca, cercare di non sbagliare ogni errore, sono soldi a speranza, vento su chiude dal tempo, ma intanto quanto sangue dovrò donare, quanto luci vorrà per realizzare tutti i sogni e progetti da spingere oltre mare, alto mare, mare sopra la nave, ma vale la pena tentare, provare sensazioni legate da ciò che ci spinge, il nostro essere come tessere di un padre complicato, sono ben studiato che ti è avanzato, malato, curato, incendiato, ormai anticorpi, forte soldato, soldato dell'anima soldier, ho rimboccato la manica e riempito my folder, di fai che fai, non fai finché non c'è il modo, noi due moto avanziamo sempre più, verso sospese aree di castelli in aria sotto le fondamenta, menti che sorreggono con razzi, nulla è possibile, se sei abile trovi modi mezzi, mezze spese stanche che osho mi spiego, pazze Diego, pezzo dopo pezzo come mi nego, unione di elementi, menti folli, poi in zero, uno per le strofe, deliri lirici empirici per lo studio deliri, è facile far uscire un prodotto, almeno che tu non abbia portafoglio ridotto. Ma dimmi senza mezzi come si fa ad andare avanti se vuoi. Vuoi? Ma dimmi senza mezzi come si fa se non c'hai soldi non vuoi. Vuoi? Ma dimmi senza mezzi come si fa ad andare avanti se vuoi. Vuoi? Ma dimmi senza mezzi come si fa se non c'hai soldi non vuoi. Manca la grana, il tuo sogno ti frana, fanno molto ti sgama la lama che leva la testa d'addosso, non posso permettere che il solito dosso cambi di posto, sposto le difficoltà per non spostarmi io, ma da solo non riesco, col mio socio che uscio me ne esco, sparo mediche sensate come un giusto estro, strike braccio destro di me stesso, sempre più spesso nuovi versi mesto, investo, versi mesto, detto lo stesso modo ma con un diverso concetto, sopra con il camion, non mi fai già detto, mi fanno i fassoni sotto i calzoni, larghi hanno la calza maglia aderente da disco, rischio ciò che mi porta a pensare la vita che vivo approssimando, mando avando comando chiaro che si rispetti, cambiando col telecomando il mondo dei non addetti, metti i miei concetti, se non avessi mezzi per esprimerli non potresti condividerli, la tua idea rivoluziona come non ancora tuo spazio nella TV zona, bella mona, t'adotto con la S davanti la F sfiga, detto per chi non è mezzi per comprendere, rendere questo è ciò che sentiresti se non avessi la testa per scrivere i miei testi, ma dimmi senza me mezzi come vuoi. Ma dimmi senza mezzi come si fa ad andare avanti se vuoi. Vuoi? Ma dimmi senza mezzi come si fa se non c'hai soldi non vuoi. Vuoi? Ma dimmi senza mezzi come si fa ad andare avanti se vuoi. Vuoi? Ma dimmi senza mezzi come si fa se non c'hai soldi non vuoi. Vuoi? Non ho mai avuto i mezzi perciò me li creavo e con ciò che avevo creavo, vedo ora i risultati, dati da sorsi continui, vieni tenui, ricordi d'inizio il precipizio ora attraversato da un ponte, il mio vizio di rifornirmi alla fonte, ponte di idee, far fronte alle trincee che bloccano, propagarsi, formarsi, informarsi di notizie se è questo è il destino che c'è, allora porterò avanti con i miei pochi contanti, con tanti amici più avanti, quanti diversi versi contatti, attivi di cervelli pazzi sparsi per i borgati, a te ti invito, questo è ciò che dico, di cosa hai capito? Non hai mezzi non vuoi? Hai mezzi non puoi? Vuoi? Poi i soldi ce l'hai, vuoi ma non puoi, i sacrifici li fai. Vuoi mi vuoi, i soldi ce l'hai, vuoi ma non puoi, i sacrifici li fai. Vuoi mi vuoi, i soldi ce l'hai, vuoi ma non puoi, i sacrifici li fai. Vuoi mi vuoi, i soldi ce l'hai, vuoi ma non puoi, i sacrifici li fai. Vuoi, mi vuoi, i